Io sono manager di un'azienda italiana, grande, mi occupo soprattutto di reclutamento, selezione e formazione del personale. E devo fare sicuramente una riflessione abbastanza importante sulla volontà anche dei giovani spesso di entrare nel mondo del lavoro. Noi abbiamo una difficoltà contraria, cioè abbiamo posti di lavoro e non abbiamo persone da collocarci. Questo va un po' in antitesi forse con il Ma mercato. questo Daniele, per la qualità professionale che trovate, le qualità professionali che trovate, o per questioni di rifiuto, il classico rifiuto del lavoro umile? Guardi, sostanzialmente non è che noi proponiamo un lavoro umile, sicuramente proponiamo una formazione professionale altissima, è la voglia di mettersi in gioco che manca e sicuramente anche la volontà inizialmente di approcciare la bistecca dalla parte dell'osso, così come si dice. È un lavoro dove all'inizio occorre fare gavetta, io ho iniziato 23 anni fa, oggi sono un manager e provengo sicuramente da una struttura anche familiare normalissima. Non c'è la voglia di mettersi in gioco, probabilmente anche fuorviata dalla troppa preparazione scolastica, troppa qualificazione che poi porta il candidato a dire io entro a questo livello o non entro per nulla.